Accarezzami, senta fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace stu desiderio te. Accarezzami, custi mani avvellutate, fai scorda tutte peccate, stringiamo un braccio a te. Sotto a stu cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire sti detinte capille. Voglio sonnare, basando sti occhi e belle. Voglio sonnare. Senta fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace sto desiderio te. Custi mani avvellutate, fai scurità tutta peccate, stringiamo un braccio a te. Sotto a stu cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire sti detinte capire. Voglio sonnare, basando sti occhi e belle. Voglio sonnare con te, accarezzami, senta fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace sto desiderio.